soli, odimi arbace, e il grand arcano che m'opprime in sé mi racchiudi. Tu sai qual atroce tempesta Nettuno su noi scatenò. Tutto me noto. Nel terribile periglio l'implorai di risparmiarci, ma invano. Allor io disperato, gli offri per fine in vuoto umana vittima. Di chi? Del primo che sulla spiaggia incauto a me s'appressi. Or dimmi chi primo tu incontrasti. Inorridisci. Il mio figlio. Chi d'amante? Salvami per pietà, salvami il figlio. Trovisi in altro clima, altro soggiorno. Tu la necessità. Alcatro nume di lui cura n'avrà. Ben dici, è vero. Ilia s'appressa, ahimè. In Argue vada e sul paterno soglio rimette in lettera. Or vanni a lei e al figlio, fa che sian pronti. Il tutto sollecito disponi. Custodisci l'arcano, a te mi fido. A te dovranno, caro viro arbace, la vita e il figlio e il genitor, la pace. Se mai pomposa apparse sul regimo di notte il dio di Deno, eccolo in questo giorno, sire, in cui l'augusta tua presenza i tuoi diletti sudditi torna in vita e lor pupille e di piansero estinta. Orra serena, principessa gentile, il bel sereno anche alle tue pupille ormai ritorni, il lungo duol di legua. Io piansi, è vero, ma poiché il tuo nome figlio libertà mi donò, di grazia e onore mi ricolmò tutta dei tuoi gioia. Eccomi, accetta l'omaggio ed in tributo il mio non più infelice, avventurato cor, al figlio, al genitor, grato e devoto. Signor, umile il sentimenti per il frange sarebber forse, ahimè, sentimenti d'amor, gioia di spere. Non m'inganno, reciproco è l'amore. Troppo il amante ha scior quelle catene, sollecito tu fosti. Ecco il delitto che in te punisce il ciel. Sì, sì, a Nettuno, il figlio di padre Eria, tre vittime saran sulla rai stessa, dai qual dolor afflitte. Una dal ferro, e due dal duol trafitte. Il naufragar. all'impegno id amante, a lui men farò, farò che adempi orror l'intento mio, il suo dover, e appaghi il tuo desio. Oggetto caro t'arresti, parti, e non dubbia fama di mille eroi che imprese il tuo ritorno prevenga. Di regnare se l'arte apprender vuoi, ora incomincia a render gire miseri il sostegno del padre di te stesso, onior più degno. Yes, yes, yes.